Salve a tutti e bentornati a una nuova puntata dell'Arcadia, grazie a Radio Big World. Oggi avevo in mente diverse cose, però voglio riprendere un attimo il discorso della musica, perché per l'appunto la musica mi ha portato a trovare un cantante, un rapper, che nelle sue canzoni non maschera quello che dice, ma lo dice apertamente, dice proprio che la scienza ci ha ingannato, che non è vero che la terra è tonda, ma lo dice proprio papale papale. Chi è questo rapper? Si chiama B.O.B., non da confondere con Bob Marley, perché sempre Bob è. Cosa ha di particolare questo B.O.B.? Allora, vi voglio raccontare questa storia in cui mi sono imbattuto durante, e penso vada avanti tuttora. Ora poi ci sono mille speculazioni su tanti cantanti, su tanti attori, su tante cose. Magari, come ho detto, alcuni, quelli che dicono o dicevano che la terra era piatta e mostravano tutte, si impegnavano nello smascherare la NASA, i complotti ci sono in giro e tutto il resto, sfortunatamente hanno cambiato completamente lato. In che senso? Che alcuni partono dicendo un po' come me, come se adesso ora io iniziassi a dire no, la terra non è piatta, è un globo, si può vedere le immagini dallo spazio, lo dicono gli scienziati che è tonda, ci sono le prove, insomma, vogliamo cancellare 500 anni di storia? No. Allora, però ci sono delle persone che hanno fatto questo cambiamento. Dal dire che non siamo mai stati sulla Luna, si sono messi a prendere in giro chi dà contro il globo. Questo perché? Perché si sono venduti. Cioè, c'è qualcuno che è arrivato e gli ha detto: ehi, smettila di dire della terra piatta, smettila di tirar fuori queste cose, devi dire il contrario. E quindi, come per esempio fa l'esempio di Joe Rogan, mi sembra è comparso anche in qualche film che ho visto ultimamente, in film con Will Smith, Bright è come si chiama il film, in Bright c'è Joe Rogan. Se andate a cercare su internet Joe Rogan contro Eric Dubay, per esempio, come ho detto, Eric Dubay è uno, secondo me, anche se ci sono delle sue opinioni non proprio con cui vado d'accordo, però riguardo la forma della Terra e le prove ci sono che non siamo stati sullo spazio e tutto il resto, sono completamente d'accordo. Cosa ha fatto Eric Dubay? Eric Dubay ha fatto un libro, un audiobook, lo potete trovare su YouTube, in internet, è stato tradotto in penso tutte le lingue del mondo, comunque in un sacco di lingue, e vi consiglio di ascoltarlo perché sicuramente vi farà cambiare idea su tante cose, comunque vi farà fare tante domande. Tornando a B.O.B., che è successo? È diventato, diciamo, è stato preso un po' in giro da, penso, un po' tutto il mondo per le canzoni che ha fatto, perché sono proprio dirette al fatto che la terra è piatta, al fatto che ci mentono, che a comandare ci sono dei pupazzi. Quindi B.O.B. vi voglio far sentire questo, sono un po' agitato oggi, quindi vi voglio far sentire scusatemi, vi voglio far sentire questo pezzo di B.O.B., cosa dice, e poi ne parliamo insieme. Turn off the TV, it's way too misleading. Telling them lies until you believe it. Repeat it, repeat it, repeat it, repeat it. It don't take a genius to pick up the pieces. Qui ci dice che bisogna spengere la televisione perché ci porta da un'altra parte, ci inganna, ci mente, che ci dice le bugie a ripetizione, okay? E questo lo potete notare tutti, è vero, la televisione è una menzogna, a partire da forum, a partire dalla vita in diretta, il Grande Fratello, l'Isola dei Famosi, che è tutto programmato, è tutto scritto e ti fanno vedere. Non è vero niente, i talk show è tutto programmato, è tutto finto, i telegiornali. Addirittura mi sono reso conto che a un telegiornale, non faccio nomi, però durante un servizio addirittura avevano, si vedeva che erano attori e simulavano un'aggressione. Ora, mi veniva quasi da piangere dalla tristezza a cui siamo arrivati. Cioè, davvero mi fai una cosa di genere? Insomma, un telegiornale guardano milioni di persone, dovrebbe dire la verità, farti vedere le cose per quello che sono. No, ti diano un sacco di cavolate. E oltre a, non solo a dirti le cavolate, ma ti danno anche immagini fatte da loro. Ma che tristezza, che tristezza. Continuando il discorso di B.O.B., cosa è successo con B.O.B.? B.O.B. ovviamente è stato preso in giro, come ho detto, in diversi programmi. In una canzone lui, diciamo, chiama Neil deGrasse Tyson, che è lo scienziato e l'attore che... C'è la fase famosa che evito di dire di Neil, che dice I'm Neil deGrasse Tyson. B, però, a Comedy Central è successo, hanno fatto sentire questo pezzettino e poi c'è stato l'intervento di questo scienziato. Vi voglio far sentire quello che è andato praticamente in onda. Sentiamo. Rapper B.O.B., perhaps you know him for hits like Airplanes and Nothing on You. He firmly believes that the Earth is flat. He is on a Twitter mission to prove it, and he says he has photographic evidence and that we've been fooled all this time. Seriously, though, these tweets are amazing. The horizon is always eye level. Once you go flat, you never go back. Where is the curve? So this thing went viral, and even world-renowned super scientist and friend of the night, the show, Neil deGrasse Tyson, got involved and refuted some of B.O.B.'s retrograde nonsense, which prompted B.O.B. to release a diss track called Flatline. Here's a taste. Neil Tyson need to loosen up his vest and probably write that man one hell of a check. Flatline, flatline, you got me once, but that died, ay. Oh, this just got real, y'all. Quindi qui cosa dice? C'è l'assistente di questo conduttore che spiega che B.O.B. e Shahila Tehila, ai tempi, penso ormai un paio d'anni fa, avevano su Twitter, avevano iniziato a mandare messaggi e foto sul fatto che la Terra è piatta, sul fatto che ci hanno mentito fino ad ora, ci hanno sempre mentito. E questo conduttore dice, ci fa sentire questo pezzo di B.O.B. in cui cita Neil deGrasse Tyson, che è questo pseudo scienziato attore, e dice nella canzone, dice che deve essere smascherato questa linea piatta, flat line, in cui dice che non si può, una volta andati piatti non torni più indietro, una volta che tu hai visto la verità, no, non torni più indietro. A parte che lo sfottono proprio spudoratamente, però poi questo conduttore fa una cosa che adesso vi faccio sentire. C'è una scenetta in cui chiama praticamente l'emergenza scienza e arriva Neil deGrasse Tyson, per l'appunto. C'è il video, basta cercare Neil deGrasse Tyson contro B.O.B. o B.O.B. contro Tyson, trovate un sacco di cose. Probabilmente è tutto montato, però, come ho detto, c'è della verità, anche se nelle cose finte una parte di verità c'è. Come ho detto, c'è Big Bang Theory, c'è anche in una puntata di Friends, in diverse puntate di Friends c'è riferimenti alla Terra piatta, anche a Psych, il programma, il telefilm, che è, diciamo, più comico che serio, però anche lì fa riferimenti sul fatto che non ci sono i satelliti, perché in una puntata c'è il suo compagno e dice usiamo il coso satellitare, il protagonista risponde sì, come se i satelliti esistessero davvero, dai. E quindi sono che uno ci ride sopra perché il protagonista fa un po' la parte dello scemotto, ma dice la verità. Dice la verità, come in Breaking Bad. Chi è che non ha visto Breaking Bad? C'è il pezzo in cui lui esce dall'ospedale a casa e la moglie è arrabbiata perché c'aveva due cellulari e lui gli dice: ma potrei aver detto stavo male, avrei potuto detto anche che la terra è piatta. E lei gli dice: credo tu abbia detto, in questo caso tu abbia detto la verità. Quindi poi dopo ve lo faccio sentire questo pezzettino anche di Breaking Bad, perché è carino, magari se lo trovo anche in italiano. Non è facile trovare tutta questa roba. Vi faccio sentire, ora divaghiamo troppo, vi faccio sentire il pezzo di Comedy Central americano, dove chiama lo scienziato, lo pseudo scienziato attore. Sentiamo. I'm gonna have to do something I rarely do. I gotta hit the science panic button. Science Emergency Defense Program initiated. Science Emergency Defense Program initiated. Oh my God. That's your distress call. Is everything okay? No, Neil, everything is not okay. This BLB BS about the Earth being flat is getting out of control. Can you please help us? All right, hold my sandwich. Oh, sure. Okay, I'm sorry. Here, you take that. But this whole thing, it's just a symptom of a larger problem. There's a growing anti-intellectual strain in this country that many, that it may be the beginning of the end of our informed democracy. Of course, in a free society, you can and should think whatever you want. And if you want to think the world is flat, go right ahead. But if you think the world is flat and you have influence over others, as would successful rappers or even presidential candidates, then being wrong becomes being harmful. To the health, the wealth, and the security, the earth isn't flat. And by the way, this is called gravity. Allora, tutte le volte che lo vedo, lo sento, mi fa schiantare dalle risate. Praticamente dice, in una società libera, ognuno può essere libero di pensare quello che vuole. Se vuole pensare che la terra è piatta, che vada avanti con il pensiero della terra piatta, ma se ha influenza su altre persone come cantante di successo o addirittura candidate alla presidenza, perché anche come Trump, che anche lui ha accennato qualcosa sulla terra piatta, quindi dice può avere un'influenza estremamente negativa su altre persone e quindi può mettere in pericolo la democrazia e la società come la conosciamo oggi. Ma non è che la mette in pericolo, se la mette in pericolo la mette in pericolo perché dice la verità, perché smaschera una bugia talmente grande, perché abbiamo un elefante nella stanza e tutti ignorano, e lo prende in giro, gli dice, tira fuori Aristotele, tutte le altre bagianate che ci hanno insegnato, e alla fine dice e comunque dice questa è chiamata gravità, e fa cascare il microfono. Ma come ho già spiegato in diverse puntate, la gravità è una bagianata, perché non sto a rispiegarlo, è inutile, è una perdita di tempo. Chi ha interesse va a cercare, se lo cerca da sé. Io non sono uno scienziato, non sono qui, io vi faccio sentire, vi do la mia opinione, vi faccio sentire delle cose. Questo è, diciamo, il mio percorso che faccio tuttora, perché non finisce, non si finisce mai di imparare. E come abbiamo detto all'inizio di programma, non sappiamo niente. E quando ammetti di non sapere niente, che allora apri la mente e inizi a vedere le cose in maniera diversa. Quindi continuiamo con B.O.B. perché ci sono diverse canzoni di B.O.B. che sono molto aggressive riguardo alla scienza e a quello che ci hanno insegnato. Vi faccio sentire qualcosa e poi ne parliamo. Another corrupt unelected, huh? Another new puppet selected. This ain't a fairy tale, yeah. Far from an urban legend. Dice un altro corrotto eletto, un altro pupazzo selezionato. Dice questa non è una storia di fantasia, non molto lontana da le leggende urbane. Ha ragione, secondo me ha ragione. Non voglio infilare il pugnale troppo a fondo su questa canzone, però questa era War Witch di B.O.B. Ascoltatela, guardate il video, dice un sacco di cose interessanti. Ma sentiamo cos'altro dice riguardo al mondo in cui viviamo. Whatever you looking for in life, you're more than likely to find it. Guns, drugs, sex, basically everything but guidance. Most of our life we guessing shit, the rest is left to science. E qui ci dice, è sempre ripreso da War Witch, ci dice che qualsiasi cosa cerchiamo nella vita la troviamo, come pistole, droga, sesso, praticamente tutto tranne una guida. Non c'è una guida. La maggior parte della nostra vita è una domanda, il resto è lasciato alla scienza. Ma ha ragione, possiamo trovare tutto nella vita tranne una guida. Chi ci guida? Chi ci dovrebbe guidare ci mente. Chi è che ci guida? Nessuno. Siamo lasciati a noi stessi. Possiamo trovare tutto tranne una guida, un qualcuno che ci guidi su quello che siamo portati noi, o sul modo di pensare, o il modo di comportarsi, o come poter migliorare le cose in generale. Pensiamo solo a noi stessi. Non c'è nessuno che ci guida, che ci dà una prospettiva diversa, un modo di vedere le cose giusto. E siamo lasciati ai mass media, a tutto quello che ci propinano, alla violenza che ci propinano, alla paura, perché la paura è controllo. Però passiamo a un'altra canzone, sempre di B.O.B. It's like the part in the Matrix where you take the red pill and you wake up and go ape shit. Told us we evolve on some ape shit, but I guarantee you Charles Darwin was a mason. Damn. E qui è un po' volgare, scusate, ma si sente di peggio in televisione, di sicuro. Dice che è la parte, questa è la parte in cui di Matrix in cui prendiamo la pillola rossa e ci svegliamo. Dice: ma noi evolviamo dalle scimmie, e vi assicuro che Charles Darwin era un massone. Perché? Perché dovrebbe... È la verità. Se andiamo a vedere le immagini di Darwin, Darwin ha il dito di fronte alla bocca, no? Il silenzio, no? Shh, è una cosa dei massoni, è come l'occhio o il 666, l'occhiolino, sono tutti simbolismi della massoneria, li ritroviamo negli astronauti, li ritroviamo... come ho spiegato, penso, in maniera esaustiva nella puntata delle 21 domande, sono tutti simbolismi, sono messaggi o non tanto per noi, ma per almeno quello che vediamo, sono per gli altri massoni che sono sulla Terra, che controllano il mondo, e quando vedono queste cose sanno cosa sta succedendo, sanno, sono messaggi segreti o qualcosa di genere, come almeno è la mia interpretazione. Poi ci sono centinaia e centinaia di intelligentoni che studiano queste cose, quindi io chi sono io? Sono solo uno che dice che la Terra è piatta, non siamo mai stati sulla Luna, e che le canzoni ci dicono la verità. Però continuiamo a prendere in giro chi cerca di tirar fuori la verità, come in questo caso B.O.B., anche se le ultime cose che ha fatto non tornano tanto, come ho detto, alcuni poi dopo si vendono, se a meno che non siano già stati venduti, gli fanno dire determinate cose e poi li mettono da una parte e vengono ridicolizzati. Nessuno li prende più sul serio, e quindi chi poi va a dire: ehi, guarda, sentito, dice la Terra è piatta, sì, ma è un buffone, no? Come si può uscire? Io a volte mi sento un po' abbandonato dal mondo, perché mi sento un po' solo in questo risveglio che ho avuto. Ho delle persone vicine che la vedono come me, ma siamo pochi, so che non siamo pochi, siamo tanti, lo so, però sono in pochi a dirlo, sono in pochi a alzarsi in piedi e dire: ehi, qui non va bene, ehi, qui è sbagliato. Ma non è sbagliato che è una cosa fatta male, no, no, è proprio sbagliato perché se ne approfittano. Se ne approfittano, a volte mi sembra davvero di avere le catene. Non ce le ho, ma le sento, in qualche modo le sento, e anche voi in qualche maniera le sentite, queste catene. Come dice in Matrix, è una prigione per la mente, che non puoi né vedere né sentire, ma ci sei dentro. Sei stato programmato per essere dentro questa prigione, per ragionare in un certo modo. Bisogna uscire questa prigione mentale che ci hanno costruito intorno. Detto questo, vi faccio sentire il pezzo di Breaking Bad e poi vi saluto, perché dura anche troppo. Quindi sentiamo il pezzettino. Skyler, ero sotto sedativi. Avrei anche potuto dire che so che il mondo è piatto. Secondo me, tu accidentalmente hai detto la verità. Nel cercare, ora scusate se l'allungo, però purtroppo nel cercare il pezzo di Breaking Bad in italiano, che ho trovato ma con non poche difficoltà, ho trovato sulla Rai c'è un programma che non mi ricordo adesso come si chiama, che andiamo a vedere cronologia, questo in diretta, attenzione, si chiama La Terra è Piatta, Nemo Nessuno Escluso, del 30/11/2017 della Rai, in cui si vede, in cui fa vedere, dice delle cose vere, tipo della Terra piatta, del fatto che ci potrebbero essere altre zone di cui non siamo a conoscenza perché ce lo nascondono. Però chi vanno a intervistare dice: oh, il più grande esponente della terra piatta italiano, bla bla bla. Cavolata, non è assolutamente vero. Non c'è nessun capo di nessun movimento. Non è che c'è un'associazione. Sì, ci sono, ma sono speculazioni. Bene. La verità è in noi. È dentro la nostra testa, perché qui che ci fa vedere, ragazzi, quando Dio la televisione ci inculca le cavolate nel capo, ragazzi, è vero, cioè, questa veramente mi fa cascare le nocciole. Cosa fa vedere? Fa vedere che lui si riprende, questo famoso terrapiattista, si riprende con la telecamera, che sviene, si addormenta, va in catalessi e sparisce. Svanisce così, okay, con effetti grafici dell'era dei dinosauri, che neanche esistevano, perché i dinosauri non esistono. A parte questo, fa vedere che sparisce e poi appare un alieno che lui lo chiama il grigino. È un grigino. Allora, questa è la tristezza proprio. Mi stupisco che abbiano mandato in onda una cosa di genere, perché fanno vedere. E poi mi devo vedere su Facebook cosa, aiutaci a trovare a togliere le notizie false. No, le notizie false sono le prime che ci mandano nel capo e ci fanno vedere, perché questa è una baggianata pura e propria. Nemmeno a Comedy Central fanno vedere una cosa di genere, ma nemmeno i bambini di 10 anni ti fanno, si divertano a fare una cosa di genere, okay? E questo qui che andava a fare il servizio di Nemo, okay, Nessuno Escluso, ti racconta un sacco di cavolate, ti racconta i bel, che la gente ci crede. È normale che poi dopo la gente pensa che siamo di fuori, come, perché credono, cioè, allora, se pensi che la terra è piatta non credi agli alieni, perché non dico che credi a quello che è scritto nella Bibbia, però credi a quello che vedi, e quello che vedi sono le prove. Che prove abbiamo? Non possiamo uscire, che abbiamo il firmamento è chiuso, siamo in un ambiente chiuso, che la terra è ferma, non si muove, che non si può fare il giro del mondo nord-sud, perché per il trattato dell'Antartico. Cioè, mi esplode veramente i homeri. È veramente ridicolo. è veramente ridicolo. E pensare che io sto a cercare lavoro e mi dicono lascialo nella cassetta della posta, come se fossi un... E poi devo vedere gente che in televisione, nella televisione pubblica, che dovrebbe informare e dare una visuale più completa della cosa, no, cosa ti fa vedere? Ti fa vedere uno che crede di essere stato rapito dagli alieni e dice la terra è piatta. E certo che poi dopo ci pigliano per rincoglioniti tutti. Questa è la prova che nella televisione c'è le baggianate, ti danno un sacco di baggianate. Quindi spengete la televisione e accendete il cervello. Con questo è tutto, grazie a Radio Big World. Io sono Gabriele, combatto per la verità. Alla prossima, ciao.